c'hai ammazza qualche lena. E dai a taro già mica il mucena. So e racchere una già dente avena. Che pa bene ne sapai che re avena. Parti, parti, crazy, parti, parti, parti, crazy, parti. So e rato c'ave co c'è tai becena. Tava cama so e rat cai che lena. E da de che bare muche cai ci vena. Mange da mange amico mora te ovea. Mangena manche shuri.